Thank you. Beh, un eccezionale Morricone per ritornare in diretta, veramente strepitoso questo lavoro del 1972 da parte del maestro italiano, non soltanto di colonne sonore, ma di buona parte delle musiche che si ascoltano anche in questi ultimi anni, ovvero le elettroniche astratte che vengono proprio da non soltanto il percorso di Morricone, ma anche di artisti piuttosto sconosciuti che facevano library e quindi si occupavano di sonorizzare tra documentari, mostre, pubblicità, veramente di tutto di più. Cosa insomma che stranamente, ma mica tanto, visto che poi succede spesso qua in Italia che grandi autori conosciuti all'estero o riconosciuti o addirittura scoperti non vengano poi ben considerati. In effetti, se andate in qualche discoteca o in qualche negozio insomma di dischi, in questo senso discoteca, quindi riprendo un termine insomma che magari è desueto per qualcuno, discoteca significa anche quello, ovvero dove ci sono vari dischi, biblioteca, discoteca. E scusate, insomma, se ogni tanto mi lancio, come dire, in polemiche quasi vintage, insomma, qualcuno le definirebbe. Appunto, dentro vari negozi di dischi all'estero potete trovate anche appunto un reparto library, soprattutto se passate, insomma, senza stare a citare chiaramente città varie. Comunque basta andare veramente poco lontano, insomma, dall'Italia, già trovate un reparto library per insomma, i non addetti, che effettivamente insomma purtroppo sono ancora tanti. La library, come dicevo prima, è legata a sonorizzazioni di vario tipo, non soltanto cinematografiche, e in Italia abbiamo avuto grandissimi maestri, Morricone in primis. Qua l'abbiamo ascoltato con L'Attentato, con una sonora del 1972, e che ci informava su come certe atmosfere decisamente tese, molto legate a thriller, potessero poi a distanza di molti anni diventare base per lavori, ad esempio, legati alla dubstep. E non è un caso, infatti, che mettiamo tra i più visionari legati a queste sonorità, questo genere, se vogliamo considerarlo tale, forse insomma un suono che comunque negli anni zero è stato fondamentale, se non peraltro insomma che dentro insomma le dance, o se vogliamo ancora chiamarle così, ha creato un immaginario forte dell'urbanità, ma un'urbanità che comunque va anche fuori da quello che è un contesto strettamente urbano, come urbano, insomma, come merce urbana, come semplice rapporto, insomma, merceologico, appunto, capitalistico, immaginario, insomma, legato soltanto a quello che è il consumo della città, ma anche è una sorta di distopia urbana che porta anche in maniera deviata, deviante, volutamente tale anche fuori, appunto, spingendo l'immaginazione dentro, appunto, immagini assolutamente nuove, seppur distopiche, e a volte anche con questo sentire decisamente teso, se non addirittura apocalittico. In questo senso Morricone, come dire, passa, fluisce questa attitudine, atteggiamento musicale rispetto a una sonorità, una sonorizzazione anche dell'emotività e di un immaginario che si va a creare. Dam Dyke Stare insieme a Hype Williams, Dam Dyke Stare dentro quello che si può ancora definire dubstep, ma forse parliamo più di post dubstep per quello che può significare P. Williams, un suono tra l'ipnagogico e devianze ritmiche, dilatazioni che vanno appunto a prendere tanto da a certa library come da un dub passato dentro una follia nuova, follia lo-fi, non più insomma lo studio di registrazione un po' malconcio dove uscivano strani missili che partivano verso un cosmo molto cannoide, cannabis alla Riperri, ma un dub con questo senso del disfacimento magari che c'è molto legato non soltanto al dub, ma ad esempio con Rudimenti abbiamo trattato anche questa sorta di disfacimento di suono volutamente mal suonato, rudimentale appunto per questo, e portato dentro il pop, se parliamo ad esempio di hypnagogic pop, quindi queste quasi screziature, se non a volte ombrosità che diventano quasi opalescenze, cose non ben definibili, appunto quasi sfocate, e questo sfocamento sicuramente ci riporta sia alle atmosfere dell'attentato di Morricone del 72, sia dentro le atmosfere attuali che stiamo vivendo. Magari l'urbanità di Bologna non è quella dei Dem Dijkster di Hype Williams, però insomma, se ci si va verso certe periferie, magari non si arriva all'immaginario apocalittico di Croydon in quel di Londra, però insomma ci si può comunque immaginare, comunque, come dire, sonorità che poi attraversano anche appunto urbanità che sembrerebbero molto distanti, che poi in realtà come sostrato invece, anche sonoro come suono urbano invece ci sta, e anche come moralità, come emotività appunto espressa prima molti anni prima da Morricone nel 72 con l'attentato e con Shagan Electro da Dem Dijk Steyr e Hype Williams. Thank you. Thank you. So quanto siano amanti o quanto conoscono insomma Dam Dyck, Steyr o anche Hype Williams, ho qualche sospetto che conoscono la library, soprattutto la library italiana, le sonorizzazioni appunto italiane, e di fatto però insomma, come abbiamo sentito anche attraverso insomma un semplice accostamento di Dam Dyck, Steyr insieme a Hype Williams, tra l'altro ultima uscita dei due progetti, ci si accorge di come già con Morricone e la sua sonorizzazione più legata chiaramente al cinema dell'attentato, tante dilatazioni, tanto anche allargarsi veramente in questo caso a macchia di petrolio dentro insomma un'atmosfera marina, è sicuramente insomma un'immagine appropriata, se non altro insomma perché la macchia di petrolio insomma comporta quella quell'urbanità, quella utilizzo appunto di materiale inquinante, comunque materiale che porta insomma appunto queste naturalezze appunto a qualcos'altro che ovviamente non è particolarmente insomma suggestivo in termini insomma positivi, ma tutt'altro. Appunto prima si parlava di distopie urbane, in questo caso insomma le distopie sono anche chiaramente sonore, da Dam Dyck, Steyr insieme a Hype Williams, a Biologia Marina. Che cos'è Biologia Marina? È una colonna sonora meravigliosa uscita nel 1973, una colonna sonora legata a una sonorizzazione, a una library in questo senso, e appunto a un mondo marino descritto a livello sonoro, e il mare e le liquidità, quindi la liquidità in questo caso per antonomasia, non è sempre qualcosa che appunto è pulito e splendidamente felice, anzi appunto facevamo prima l'esempio della chiazza di petrolio insomma che si dilata attraverso la superficie marittima, Così forse è anche per Biologia Marina nel 1973, dove la natura non è vista soltanto in maniera pacata, appunto New Age, quello che poi sarà la New Age dopo qualche anno, insomma, anche qua in Italia dagli anni 80 colpirà un po', poi per fortuna insomma cadrà anche abbastanza in disgrazia, anche se poi per certi versi ci sono stati anche passaggi di vario tipo che ancora purtroppo sussistono dentro, insomma, quello che è un po' la grande così fesseria quasi impossibile, ma in realtà poi resa tale fesseria consumistica, insomma, della New Age. E in questo caso la natura è vista anche nel suo aspetto tremendo, nel suo aspetto anche veramente a questo punto senza tirar fuori i leopardi, ma poi alla fine tirandolo fuori anche maligno, anche qualcosa che porta, insomma, dolore, quindi non soltanto, insomma, immagini edulcorate marittime, ma tutt'altro. E a livello sonoro, appunto, questa anche immersione dentro questa liquidità sonora che abbiamo fatto con Brian, abbiamo fatto ascoltare con Brian, che altro non sarebbe che Alessandro Alessandroni. Magari qualcuno si chiede, sì, ma chi è Alessandro Alessandroni? In realtà, insomma, personaggio anche musicale che negli anni 70 si è fatto anche conoscere piuttosto bene. Così vi dico vi do un riferimento: molto famoso il suo fischio, ad esempio, dentro i film di Leone, e appunto le collaborazioni con Morricone, e abbiamo ascoltato con Octopus, quindi appunto il mostro marino, e Vita Abissale, appunto una sorta veramente di immersione profondissima, come d'altronde quella di Francesco Tamponi, Profondità. Probabilmente anche i nomi, insomma, così tra italiani, insomma, fanno un po' sorridere. Non si pensa a grandi sperimentatori elettronici legati, insomma, a personaggi e a musicalità recentissime, ma insomma così vengono magari, insomma, più associati alla piazza magari della piccola provincia, del piccolo paesello, insomma. In realtà, insomma, sia Alessandro Alessandroni che Francesco Tamponi, altro che provincia, veramente c'è un'immersione, soprattutto una liquidità che veramente passa di decennio in decennio. Ci andiamo a ascoltare quindi un piccolo estratto ancora da Biologia Marina, Francesco Tamponi con la sua Profondità, veramente into the deep, direbbero gli inglesi. Thank you. Beh, lavoro decisamente notevole quello di Pie Corner Audio, questo Sleep Game, e beh, che faceva un tutt'uno probabile, un fluire anche eccezionale, emotivamente assolutamente quantomeno affascinante, per non dire insomma veramente avvolgente, scusate insomma la terminologia un po' così, un po' da romanzo d'appendice, e sì, quindi biologia marina con il pezzo ascoltato di Francesco Tamponi insieme a Pie Corner Audio, un po' quello che dicevo prima, uno dice Francesco Tamponi, poi dice Pie Corner Audio, e beh allora poi ovviamente, come dire, Pie Corner Audio suona meglio, no? E Sleep Games, il disco Depend, stavamo appunto parlando di profondità, e che profondità appunto quella di Francesco Tamponi, che dentro Pie Corner Audio, ma dentro tutta una delle esperienze musicali più belle di questi ultimi anni, la Ghost Box, c'è tutto, e qua veramente anche in maniera rivendicata, se in Them Dyke Stair, Hype Williams, magari c'è come dire il rimando, qua c'è proprio la rivendicazione di una sonorità e la riscoperta di tutta la library music, soprattutto italiana, del suono elettronico degli anni 70 legato a serie televisive fantascientifiche, documentari insomma che trattavano appunto dalla biologia marina allo spazio, e a momenti che di fatto insomma hanno creato un forte, anche se un po' paradossale parlare di forte, immaginario legato all'ipnagogic pop o all'elettronica ipnagogica, visto che poi buona parte di queste progettualità si muove dentro spazi e fluire elettronico, però insomma tanto sta che la faccenda ha preso veramente piuttosto anche piede come musicalità, non soltanto di rimando a quello che è insomma parlando di un'altra delle emozioni insomma più forti, anche questa da romanzo d'appendice, ovvero la nostalgia, non soltanto appunto in maniera nostalgica, ma riformulando l'immaginario e un ritorno a un futuro che, per quanto insomma potesse essere disegnato in maniera naif, se pensiamo a certe faccende televisive, fantascientifiche, di fatto poi rivedendolo poi col passare, risentendolo, rimodulandolo, rimanipolandolo rispetto insomma ai decenni passati, assume quel valore veramente di portata in avanti, una sorta appunto di ritorno al futuro, più che un appunto un compianto, una compianta nostalgia che dentro la Ghost Box non c'è, appunto c'è questo però questo sentire molto molto fantasmatico, palescente, prima dicevo, questo sfocato, sfumato, che comunque musicalmente poi, e anche a livello di immaginario, colpisce veramente tanto. In questo senso quindi c'è la forza della Ghost Box, di progetti come Pie Corner Audio, ma potremmo anche citare meravigliose esperienze come quella di Bellbury Poly, Focus Group, Advisory Circle, insomma sono varie le faccende buone, ottime, che circolano dentro Ghost Box, etichetta che sta influenzando anche, o insomma c'è comunque una sorta insomma di comunicazione, vasi comunicanti tra Ghost Box e esperienze come quelle di Them Dyke Stair o soprattutto Hype Williams, ma anche quelle di Rhyme, stupenda progettualità anche questa, giovane, fresca e quant'altro insomma si possa desiderare, seppur insomma sì, per quanto fresca l'acqua, nel senso di appunto rinfrescante, no, no, novità, e di sicuro, insomma, anche chiaroscurare la faccenda, perché insomma Rime riporta quella visione distopica, apocalittica, che ad esempio abbiamo trovato dentro Pike Corner Radio, dopo Depend abbiamo ascoltato Ador in the Dry Ice, dove sembra quasi ridisegnarsi, ridefinirsi, rifilmare forse un B-movie apocalittico, stranamente proveniente da anni 80 reinventati, o forse insomma mai esistiti, comunque forse rimandano più veramente a un immaginario ricostituito o assolutamente nuovo. Rime con il loro Quarter Turns of Over a Living Line sì, non fanno altro che buttare macerie sulle macerie, in un certo qual senso, la fine d'un mondo non più ricostruito, come dire, con pezzi saldi, mattoni, ma con le stesse macerie, dalle stesse macerie ricostruire, quindi buttare forse macerie su macerie o ricostruire in questa maniera? Boh, una domanda, insomma, che come dire, poi in mente il caso di farsi, soprattutto quando si ascoltano materie sonore appunto come quelle di Rime. Altro disco importante del 2012 insieme a Strip Game di Pie Corner Audio, questo Quarter Times Turns Over Living Line, appunto del combo londinese, qua veramente quelle lande desolate di certe periferie di quel di Londra portano, insomma, da veramente apocalisse post-industriale, in questo senso anche non soltanto come immagine reale che si ha, insomma, andando a vedere, insomma, Croydon o altri posti del genere, ma anche come sonorità, come suoni che attraversano, insomma, quelle località, suoni che comunque o non località, forse qualche non, insomma, qualche tempo fa se ne uscì con luoghi, in realtà poi sono luoghi, e come, perché poi diventano veramente anche, appunto, immaginari, non soltanto così da B-movie distopico, ma anche di fatto, insomma, quartieri difficili da vivere. E Rhyme sicuramente è dentro questa liquidità, se di liquidità comunque chiaramente stiamo parlando, e stiamo, come dire, facendo fluire dentro 451 frammenti sonori, di certo di una liquidità, insomma, intorbidita decisamente. Prima mi immagino quella della chiazza di petrolio che si espande, forse è quella la faccenda che abbiamo fatto partire da Ennio Morricone con l'attentato 1972, abbiamo continuato con Dan Dyke Star e Hype Williams con Biologia Marina, ovvero una parte di sonorizzazione di Biologia Marina di Alessandro Alessandroni e di Francesco Tamponi, Pie Corner Audio per l'appunto insieme a Rhyme, e finiamo con un intorpidimento che comunque, come dire, rimane quasi statico, se non addirittura estatico per un effetto quasi, appunto, di stupefazione quasi che può dare, insomma, anche così l'effluvio chimico probabilmente di una sostanza come il petrolio, insomma, non tanto per tirar fuori, insomma, droghe punk, non credo che, insomma, oltre la colla si siano arrivati anche a tirarsi il petrolio, anche perché costa di più della colla, però di certo, insomma, se si tratta di stupefazioni, sono legate comunque a momenti di di non chimicità e non di droghe come escapismo, ma di momenti di stupefazione che si possono vivere soltanto in situazioni estreme, decisamente urbane, appunto in queste lande desolate, quasi veramente al liminare di un mondo, e chissà, insomma, affrontando quale abisso immaginario, insomma. Adesso non voglio fare anch'io l'apocalisse B-movie, comunque vi abbandono con T-Maker e Daniel Lopatin, seppur, insomma, da come avete capito la tentazione mia è forte, visto poi, insomma, le giornate che ci viviamo, i tempi che ci viviamo, ma probabilmente, insomma, senza neanche avere troppo paura dell'abisso, anzi, proprio, come dire, buttandosi e tuffandosi dentro questo ignoto che sembra, appunto, un'oscurità infinita. E vi lascio con questo punto di domanda, roba, insomma, quasi da Marzullo. Vi rimando a domenica prossima per 451 frammenti sonori in mia compagnia. Vi saluto e, come dire, vi porto i saluti di Eliseo Scarpa. Speriamo, insomma, di averlo più presto qua dentro con la nave di 451 frammenti sonori, visto che questa sera abbiamo parlato appunto di liquidità. Una buonanotte, T-Maker insieme a Daniel Lopatin. Come dire, non sto neanche a presentarli, conoscete entrambi Onetrix Point Never 1, come da, appunto Daniel Lopatin ogni tanto stampa, a T-Maker, insomma, due visionari tra visioni desolanti, decisamente urbane, ipnagogiche, così una sorta di profondità ambient e di cosmi, a questo punto tra il profondissimo e veramente il lontanissimo. T-Maker è appunto Daniel Lopatin, per finire, Instrumental Tourist, sì, beh, in effetti in un certo qual modo turisti, forse ancora superficialmente, così non troppo ancora immersi, non definitivamente forse immersi, ma poi in realtà per certi versi lo siamo anche, comunque sicuramente dentro le musiche di T-Maker, Daniel Lopatin, di questo Instrumental Tourist c'è da immergersi, e come. Vi lascio così, buonanotte da Max Macchia e appunto a domenica prossima.